Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, molte notizie oggi che riguardano i vari settori produttivi italiani e, non per usare una battuta scontata, ma in chiaroscuro. Perché? Perché se da un lato ce ne occuperemo, crolla veramente il fatturato e l'export del settore del legno arredo, che significa mobili ma non solo, una delle quattro individuate dall'economista Marco Fortis come elementi trainanti, colonne portanti del nostro Made in Italy, meno 20% il fatturato, meno 23% l'export, e addirittura il presidente di Federlegno Arredo, Rosario Messina, che avremo ospite nella seconda ora del programma, la definisce una terza guerra mondiale più che una crisi. Dall'altro invece è più che buono il bilancio, considerato l'anno che si sta chiudendo, del mondo assicurativo. Addirittura aumenta del 3,5% il ramo, quello ramo vita, quindi gli investimenti in prodotti assicurativi per di solito tutelare il capitale. Cala un po' del 2,5% il ramo danni, ma insomma un buon anno per il mondo assicurativo. Ancora, sempre in chiaroscuro, un buon anno, o meglio un buon Natale, è quello che ci si attende per il settore alimentare, perché oggi Federalimentare ha diffuso le stime di quello che sarà il Made in Italy alimentare sulle tavole italiane, ma di tutto il mondo, e qui le notizie sono buone, perché insomma l'export di prodotti alimentari italiani trasformati toccherà i 2 miliardi di euro, raddoppiando rispetto a 10 anni fa, ma soprattutto un più 10%, anzi raggiungerà l'export totale natalizio di prodotti alimentari italiani, raggiungerà il 10% di tutto l'export dell'anno. E anche questo è un buon dato. Tra l'altro il valore previsto potrebbe triplicare, sempre nell'esportazione di prodotti alimentari italiani sotto festività natalizie, a 6 miliardi di euro. In sostanza, come già avevamo anticipato con il ministro Zaia e il direttore del Gambero Rosso, c'è un vero e proprio boom dello spumante o delle bolle italiane. Non è solo lo spumante, anche il prosecco, la Franciacorta, insomma tutto quello che va sotto nome di bolle italiane. Il panettone addirittura tocca i 10 milioni di pezzi quanto a export, e questa è una notizia obiettivamente che ci fa piacere, e altri prodotti, e anche la pasta fresca. Sulla pasta è appena arrivata qualche minuto fa una notizia che invece scuoterà, immagino, un po' il settore, perché sono in corso perquisizioni nelle 15 o comunque nelle principali aziende della pasta in Italia, perquisizioni effettuate oggi dai militari della Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta avviata dalla Procura di Roma sul rincaro di questo alimento. Perquisite la Barilla a Parma, la De Cecco a Pescara a Roma, il pastificio Garofalo a Gragnano e il pastificio Amato a Salerno, e la sede della Divella a Bari, ma anche la sede dell'Unione Pastai Italiane a Roma. Il tema l'abbiamo affrontato più volte: a fronte di cali nella materia prima del 20%, si sono registrati aumenti che secondo alcuni sono ingiustificati, aumenti anche a due cifre nel prezzo della pasta. Comunque, per ora l'unica notizia che abbiamo è questo flash di agenzia. E allora, settore assicurativo, settore del mobilio arredo e anche settore alimentare oggi al centro di Focus Economia. Apriremo chiaramente però con, da un lato, l'iter della legge finanziaria, con la decisione del governo di porre la fiducia, molto contestata, possiamo dirlo tranquillamente, dal presidente della Camera Fini. E poi parleremo anche dello stato dell'arte dei nostri conti pubblici. Oggi infatti bilancio annuale dell'agenzia di rating Standard & Poor's per quello che riguarda l'Italia, ma in generale non solo il voto al debito italiano, ma quanto anche l'andamento dei debiti degli altri soggetti, società private, che Standard & Poor's come altre agenzie di rating effettuano ciclicamente, quindi per capire se anche il debito dei grandi gruppi, dei gruppi medi, stia tenendo oppure scricchioli. Su questo fronte invece un po' più di preoccupazione l'ha espressa oggi l'altra grande agenzia di rating, sono tre, Standard & Poor's, Fitch e Moody's, e dicevo l'ha espressa Moody's, sostenendo che nel 2010 potrebbe esserci un problema per quello che riguarda il rifinanziamento dei conti pubblici dei vari paesi. In realtà ha detto Moody's, sarà un anno turbolento quanto a rischio sovrano, quindi il debito delle singole nazioni, allacciare le cinture di sicurezza per il 2010, perché c'è molta incertezza sulle uscite dalla crisi e sulla capacità di rifinanziare il debito. Io faccio notare che solo nel 2010 l'Italia avrà bisogno di 250 miliardi di euro per rifinanziare il proprio debito, quindi di obbligazioni da emettere. La Germania 210, la Francia 175, la Spagna 80, l'Olanda 57, la Grecia 44. Questo come conseguenza dei soldi che i vari paesi, anche come conseguenza dei soldi che i vari paesi hanno dovuto tirare fuori per salvare il sistema bancario. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Sì, ho detto, vedo già che qualcuno mi scrive, per rifinanziare il sistema bancario, in particolare il sistema bancario, anche per sostenere l'economia. Comunque, i vari paesi europei, come altri paesi diciamo sviluppati, hanno dovuto utilizzare la cassa per far reggere il sistema dell'economia e della finanza alla botta tra il 2008 e il 2009, e questo va rifinanziato e si crea su questo debito, come l'andamento del debito, del deficit dell'area euro dimostra chiaramente. Andiamo con le notizie in breve. Dicevo, di borsa parleremo come sempre. Piattina la giornata oggi, meno 0,15% per quello che riguarda il FTSE MIB e anche il FTSE All. Parigi più 0,1%, Francoforte più 0,1%, Londra meno 0,2%, l'America meno 0,2%, poco mosse quindi le borse, con in Italia sotto i riflettori Mediolanum meno 2,8%, il peggiore tra quelli a maggiore capitalizzazione, Popolare di Milano anch'essa debole meno 2,6%, Mediobanca meno 1,6%, Prismian meno 1,3% come Pirelli, Banco Popolare meno 1,1% come Unicredito. Chi guadagna invece? Mondadori più 2,2%, Ansaldo più 2% come A2A, l'1,4% e rialzo di Unipol, Estima Microelectronics più 1,2%, Mediaset più 1%, Luxottica più 0,80%. E ancora, per quello che riguarda i mercati, di nuovo in evidenza oggi soprattutto l'euro su dollaro a 1,4532, e quindi sempre debole l'euro nei confronti del dollaro. Il petrolio è sempre sotto i 70 dollari, è aperto in rialzo ma a 69,95 dollari. Economia internazionale, partiamo come sempre da lì per poi andare a stringere sull'Italia. Una vera e propria gelata per quello che riguarda l'indice manifatturiero dello Stato di New York, quello che si chiama Empire State Index, è sceso drasticamente a 2,55 punti contro il 23,5 punti di novembre, e con tutti gli analisti che si attendevano 24 punti, praticamente è arrivato a un decimo. Vedremo di capire se c'è qualche motivo eccezionale, perché il dato così com'è è abbastanza così sorprendente. Di Moody's vedo già molti messaggi, parleremo tra un attimo. Intanto il Presidente della Commissione Europea Barroso ha detto no all'ipotesi di un mercato obbligazionario europeo, cioè dei bot europei per quello che riguarda anche l'aiuto alla Grecia e altri paesi di fronte agli elevati debiti pubblici. L'ipotesi era quella che l'Europa potesse mettere dei bot, chiamiamoli così, o dei BTP europei, quindi garantiti dell'intera area euro, e questo avrebbe permesso anche ai singoli governi di liberare risorse. In qualche modo ricalca il vecchio piano Delors, quello che diceva gli investimenti infrastrutturali che servono a tutta l'Europa devono essere pagati da tutta l'Europa, e magari attraverso obbligazioni europee. Comunque, no del Presidente della Commissione Europea. Soffre oggi la borsa di Atene, meno 3% dopo il piano annunciato dal Premier Papandreou, un piano di misura breve e medio termine per portare il deficit sotto il 3%, mentre per quello che riguarda la Francia, si è avuto notizia ieri, devo dire il programma era già finito, di un altro investimento pubblico da 35 miliardi di euro, di cui 13 finanziati dal rimborso che le banche francesi stanno facendo allo Stato per gli aiuti ricevuti, il resto con un ricorso al mercato. Questo per rendere la Francia un paese più forte e competitivo senza penalizzare troppo le disastrate finanze pubbliche e preoccupare i mercati. Questa insomma la ricetta annunciata da Sarkozy, che questi 35 miliardi, che non è poca roba, sono quasi tre manovre finanziarie, anzi delle nostre anche di più, 35 miliardi, appunto 13 di rimborso alle banche e gli altri raccolti sul mercato. Nuovo dato oggi sulla disoccupazione in Europa. Nonostante i tentativi di ripresa, continua a crescere in Europa. Già ieri abbiamo dato il dato complessivo. Pensate che da marzo del 2008, quindi da quando diciamo la crisi non era ancora entrata nella sua parte più virulenta, ad ora ci sono 6 milioni e mezzo di disoccupati in più. Praticamente un piccolo paese europeo quasi in tutta Europa, anche se oggi è proseguito il rapporto della Commissione Europea, sui mercati si colgono segnali di stabilizzazione, anche perché nella solo 2009 si sono creati 4 milioni e mezzo di posti di lavoro in meno, cioè si sono persi 4 milioni e mezzo di posti di lavoro. La cosa che però dispiace è che secondo la Commissione Europea ci sono due paesi in cui non si sta stabilizzando il mercato del lavoro e quindi continua a essere debole: la Spagna e l'Italia. Mentre il declino è più moderato in Francia e Germania. Poi è uscito anche il dato sul PIL pro capite, quanto ogni italiano, ogni francese contribuisce al PIL. Dunque, l'Italia resta al 13° posto, sotto la media europea. Davanti a noi ci sono tutte le altre principali economie europee, compresa la Spagna, che anche nel 2008, però attenzione, è risultata sopra l'Italia quanto PIL pro capite. So già l'obiezione: i miliardi di nero, si dice 200 miliardi di nero in questo paese, lo so, però il nero è nero e non può essere contabilizzato. Retribuzioni Istat nel terzo trimestre più 1,8% rispetto all'anno prima, più 3,9% il dato sull'industria. E questo era il dato diffuso oggi: le retribuzioni di fatto sono aumentate dello 0,5% rispetto al secondo trimestre del 2009, quindi il dato congiunturale, e dell'1,8% rispetto al terzo trimestre del 2008. Ultima notizia e poi passiamo con i nostri collegamenti. Il mercato dell'auto in Europa è volato letteralmente più 26,6%. Le immatricolazioni a novembre in Europa, l'Italia, già il dato era noto, più 31,2%. E ancora la quota Fiat è salita, dunque Fiat ha fatto un più 27,7% a livello europeo, quindi meglio della media, e anche la quota è salita per quello che riguarda il gruppo Fiat. Adesso partiamo con il nostro primo aggiornamento finanziaria e anche le politiche fiscali, perché ci sono novità anche sul fronte dello scudo fiscale. Eh sì, perché il governo ha deciso di porre la fiducia per quello che riguarda la manovra, nonostante l'opposizione, abbiamo sentito la settimana scorsa l'UDC con Pier Ferdinando Casini, ma anche il PD avesse detto, si fosse detta disponibile a ridurre gli emendamenti pur di arrivare a un dibattito parlamentare. Se tu poni la fiducia, infatti il dibattito non c'è, si vota la fiducia alla manovra e basta, sostanzialmente, e quindi non c'è discussione alla Camera. E ricordo una manovra da 8 miliardi e 900 milioni che è triplicata quasi rispetto a come era entrata alle Camere, Senato e alla Camera, proposta dal Ministro Tremonti. 27esima fiducia in 19 mesi di governo. Le opposizioni dicono, beh, insomma, con 100 deputati di scarto questo è inaccettabile. Comunque tutti gli aggiornamenti da chi sta seguendo il dibattito, sia il nostro Andrea Viali a Montecitorio. Andrea, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, fiducia posta e con reazioni, devo dire, soprattutto sulla finanziaria, soprattutto all'interno della maggioranza. Beh sì, è così Sebastiano, e soprattutto una polemica tutta all'interno del centro-destra, anche se ovviamente anche l'opposizione ha criticato, ha contestato la decisione di porre la fiducia sull'articolo 2 della finanziaria, perché l'articolo 1 è stato invece approvato stamattina proprio ad inizio di seduta, quindi polemiche nel centrodestra e polemiche anche per un intervento abbastanza duro del presidente della Camera Fini, che ha contestato anche lui con l'opposizione il ricorso alla fiducia. Fini in sostanza ha detto che non c'era necessità di blindare in questo modo la finanziaria, l'opposizione non stava facendo più opposizione, più ostruzionismo, c'erano da esaminare soltanto 64 emendamenti, 55 erano dell'opposizione che, come giustamente ricordavi, nei giorni scorsi ha anche deciso di ritirarne altri, per cui ecco, Fini ha detto sì, è legittimo per il governo chiedere la fiducia, che però è un atto politico, ma è un atto politico che in questo caso non si riferisce tanto al rapporto tra maggioranza e opposizione quanto al rapporto tra governo e la sua maggioranza, ha detto in sostanza Fini, che ha definito appunto questa decisione deprecabile. Ma possiamo sentire esatto le sue parole. La presidenza della Camera considera deprecabile la decisione assunta dal governo, perché di fatto impedisce all'Aula di pronunciarsi sugli emendamenti. Ecco, insomma, anche una presa di posizione, diciamo, dura da parte del Presidente della Camera, comunque in contrapposizione con quella che certo è la sua maggioranza, ma soprattutto con il governo, e per il governo, diciamo, ha risposto in modo polemico il Ministro Calderoli, che ha invitato sostanzialmente Fini a applicare il regolamento della Camera più che a fare poi valutazioni di tipo politico. Con Fini se l'è presa anche il ministro Bondi, che è anche uno dei coordinatori nazionali del Popolo delle Libertà, che ha detto in sostanza che, diciamo, interventi come quelli di Fini, ecco, di certo non contribuiscono a riportare la calma in un confronto politico che sappiamo anche per altri motivi, vedi sì, l'aggressione a Berlusconi è abbastanza aspro. Naturalmente a fianco di Fini si è schierata invece l'opposizione, una presa di posizione per tutti è quella del segretario del PD Bersani, che ha detto beh, non si può andare avanti al ritmo di 25 fiducie all'anno, evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Beh, questo mi sembra abbastanza non si capisce, io non ho ancora capito personalmente, ma è colpa mia, il perché di questa fiducia, visto l'ampia maggioranza che c'è sia al Senato che alla Camera, e visto che appunto c'è stato un tentativo di arrivare a un accordo riducendo gli emendamenti dell'opposizione. Dopodiché lo dico anche a chi scrive, diciamo, teniamo le cose distinte, qui si sta discutendo la finanziaria alla Camera e i giudizi sono eminentemente politici, il clima del paese non c'entra niente con la discussione che abbiamo visto ogni anno, anzi quest'anno mi sembra anche un po' più tranquilla quando c'è da approvare una legge finanziaria. Per carità, non confondiamo le cose, i campi, quello che è il clima esterno con la discussione normale all'interno di un Parlamento. Grazie Andrea Viali, in collegamento con noi da Montecitorio. E adesso un altro tema di aggiornamento di oggi che riguarda lo scudo fiscale. Fiscale, allora, si diceva, è scaduto oggi, praticamente sta scadendo il termine per adesione allo scudo fiscale, ultime indicazioni, regolarizzati circa 110 miliardi di euro, alla faccia degli italiani che vanno a portare i soldi all'estero, con un incasso per lo Stato di 5 miliardi e mezzo, visto che è il 5% la tassazione. Sono quasi 2 miliardi in più di quelli preventivati, in realtà il governo aveva sempre detto di attendere tra i 3 e i 5 miliardi, comunque nella finanziaria ne aveva messi 3 miliardi e 7. E poi soprattutto probabile una proroga del termine fino al prossimo 30 aprile con un'aliquota che salirà dal 5 al 6%. Il gettito aggiuntivo potrebbe essere destinato a misure di sostegno per i nuclei familiari numerosi attraverso un aumento delle detrazioni IRPEF. Positivo il giudizio della Presidente di Confindustria Marcegaglia. percentuale più alta da pagare potrebbe essere un'opportunità. Noi siamo anche per la lotta all'evasione fiscale. Adesso si chiude una logica e noi abbiamo sempre detto che lo scudo poteva essere una specie di male necessario per capitalizzare anche le imprese. Adesso si apre una nuova logica in cui la lotta all'evasione fiscale deve continuare e deve diventare ancora più forte. E poi il tema tasse. Oggi ne hanno parlato appunto la presidente di Confindustria Marcegaglia, ma anche i leader sindacali a margine del convegno di CISL e UIL su fisco e coesione sociale. Abbassare le tasse e soprattutto una violenta semplificazione delle tasse, quello che ha chiesto la presidente di Confindustria. Noi qui oggi siamo per dire che un abbassamento delle tasse serve a medio termine sulla parte che più soffre del paese, cioè imprese e lavoratori. Noi siamo qui oggi per dire che siamo insieme nella logica di una programmazione in più anni, perché siamo consapevoli che l'equilibrio dei conti pubblici è importante, di abbassamento delle tasse sulle imprese e sui lavoratori. Quindi non solo sui lavoratori, non solo sulle imprese, ma insieme. E allora, mentre questa è la posizione di Confindustria, i sindacati cosa hanno detto? Bonanni e Angeletti, quindi da un lato la CISL, dall'altro la UIL: il paese ha bisogno di una riforma fiscale. E diciamo, la sintesi dell'iniziativa dei due sindacati l'ha fornita Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL, alla nostra Chiara Grandis. La strategia che dobbiamo avere deve raccogliere il massimo fronte di interessi, perché è l'unico modo per passare a costruire una nuova fiscalità. Diversamente, se ognuno ci va per fatti suoi, sembra che corrisponda alle sue esigenze, ma poi non fa niente, come è successo nell'ultimo trentennio, perché abbiamo avuto troppi governi, tutti i governi negli ultimi trent'anni, che hanno fatto finta di non vedere che la bolletta Italia è pagata quasi interamente da lavoratori e pensionati che hanno la ritenuta la fonte. A me interessa che si faccia un accordo sulla vicenda fiscale, perché anche l'intervento dello scudo fiscale è frutto di uno Stato che non ha saputo custodire i propri soldi e li ha fatti andare all'estero, salvo poi alcuni che governavano in quel momento gridare allo scandalo perché oggi rientrano a una aliquota molto bassa. Dovevano scandalizzare anche quando uscivano, non solo quando rientrano. Allora, molti di voi ci chiedono al 349-238-6666 se questa massa, noi l'avevamo detto perché parlando in maniera informale con molti operatori che stanno scudando i capitali, come si dice in gergo, avevamo saputo già da alcune settimane che stava entrando di tutto, molto più di quanto non ci si attendesse, non a caso siamo a 110 miliardi con la proroga, poi vedremo a quanto si arriverà. Molti ci chiedono se questo vorrà dire che ripartirà il mercato della casa, del mattone. Beh, è successo così, secondo molti osservatori, la volta l'ultimo scudo, quello precedente a questo. È probabile che succeda anche adesso, visto che il mattone resta un investimento molto sicuro. È probabile che però, visto il tipo di capitali che rientrano, andranno per la maggiore i pezzi forti, le case molto care. Se non penso che uno abbia fatto rientrare 200-300 mila euro, così non sembra perlomeno, no? Vabbè, ministro Tremonti, sull'utilizzo di questi soldi, ma soprattutto sulla, diciamo, la linea guida per la fiscalità, colpire la speculazione e l'uso e consumo dell'ambiente, più attenzione a famiglia, lavoro, ricerca. Abbiamo il dovere civile di accendere alcuni lumi su un disegno che vedo organizzato in un modo, in qualche modo selettivo, e di una selettività che ne fa la diversità. Io credo che il sistema debba avere un segno di favore, bonus per alcune voci, un segno di sfavore, malus, per altre voci. Io credo che lo sfavore debba essere riservato alla speculazione finanziaria e al consumo dell'ambiente. Che all'opposto il favore debba e possa essere riservato alla famiglia nella sua composizione, al lavoro nella sua funzione e alla ricerca e all'ambiente. E Vedremo, vedremo se nel 2010, conti permettendo, si potrà arrivare a una nuova fiscalità, riduzione dell'IRPEF e in che modo. E dopo il metro, la pubblicità, proprio dei conti pubblici parleremo, ma non solo, anche dei debiti delle società, perché parleremo di ratings, ossia del voto che le agenzie danno all'affidabilità del debiti contratti da soggetti pubblici, stati sovrani oppure privati, società. 349-238-6666 per i vostri sms. Intanto la borsa ha chiuso con poche variazioni, meno 0,15%, invariata Parigi, invariata Francoforte, meno 0,45% Londra, meno 0,1% l'America. Insomma, poche notizie oggi dal mercato. Titolo migliore Mondadori più 2,5%, titolo peggiore Mediolanum e Popolare di Milano meno 2,8%. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare di debiti, debiti degli stati sovrani ma anche e soprattutto delle società e poi della borsa. Ripeto, oggi la giornata è abbastanza piatta su molti fronti. Allora, ringrazio e saluto per averci raggiunto in collegamento Maria Pierdicchi, che è amministratore delegato di Standard & Poor's Italia. Buonasera dottoressa. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, voi oggi siete usciti con un bilancio, diciamo, si fa a fine d'anno, dell'andamento non solo, ripeto, per quello che riguarda gli stati sovrani ma in generale la situazione. Allora, per quello che però ha a che fare sul il debito italiano, il giudizio è confermato a più, ma era una notizia già nota. Qualche valutazione ulteriore, perché poi abbiamo visto anche alcune agenzie, ma ne parleremo più avanti, che riguarda invece la vostra outlook, la vostra valutazione futura sulle banche. Ma partiamo dal debito italiano. Diciamo che abbiamo confermato, Standard & Poor's ha confermato il rating attuale della Repubblica Italiana da più con prospettiva stabile, sulla base anche di un'aspettativa di una stabilizzazione di quello che pensiamo sarà il rapporto tra debito e prodotto interno lordo, che ci attendiamo per il prossimo anno intorno al 116%, ricordo che nel 2008 era il 102-103%. L'aumento è dovuto da un lato a ancorché modesto aumento dovuto a qualche manovra di sostegno dell'economia che per l'Italia è stata però molto contenuta, ma soprattutto alla riduzione del denominatore, cioè del reddito, che sappiamo essersi contratto fortemente quest'anno. Tuttavia noi riteniamo che questo livello del 116% andrà stabilizzandosi nel 2010 anche per effetto di manovre che ci attendiamo del governo di controllo del lato della spesa, del deficit e del lato della spesa in particolare, che quindi dovrebbero portare a una stabilizzazione anche del costo di questo debito, che stimiamo intorno al 10% per il 2010, potrebbe forse salire un po' di più, al 10% delle entrate pubbliche, potrebbe salire eventualmente anche al 12% qualora vedessimo un cambiamento nei tassi di interesse, che non è da escludere nel medio termine, però diciamo che ci sono le aspettative di un mantenimento di questo livello, che pur essendo piuttosto alto, uno dei più alti, ricordiamolo, tra i paesi industrializzati, però non è significativo. Effettivamente cambiato, e c'è tutta l'aspettativa e l'intenzione del governo di mettere a punto un programma di anche nell'ambito del piano di stabilità di controllo della spesa, che potrà non portare maggiori crescite. Quindi voi vi attendete una manovra, insomma, finanziaria sul 2010 che porti a controllare le uscite di cassa? Diciamo un'azione, ecco, generale. Siccome sappiamo che però il debito come il deficit sono in realtà importanti come rapporto, non come numero assoluto, cioè in rapporto al PIL, a questo guarda l'Europa e guardate anche voi, vi attendete che il denominatore, quindi il PIL, possa aiutare? Perché insomma, se cresce il PIL più delle attese, è chiaro che tu puoi reggere un deficit e un debito un po' più alto, diciamola tutta. Beh, diciamo che siamo usciti sicuramente per l'Europa dalla fase di contrazione del reddito, noi ci aspettiamo una ripresa in tutta Europa, una ripresa purtroppo che non sarà robusta, sarà molto contenuta per un po' di tempo. Noi ci aspettiamo una crescita dell'euro dell'Eurozona l'anno prossimo di non più dell'1%, tendere verso il 2% nel 2011. Penso che l'Italia sicuramente sarà allineata su questi livelli, quindi non siamo di fronte a un'alta crescita, ma questo vale per tutta l'Europa per effetto di alcune fragilità che rimangono nell'economia. Innanzitutto la disoccupazione, che continua a crescere in alcuni paesi molto più che in altri, però a livello europeo non è finita l'onda della disoccupazione, questo influisce sui consumi. Poi abbiamo dei fattori di debito, il debito permane molto elevato in alcuni paesi, in particolare il debito privato, ma anche il settore pubblico. Abbiamo visto l'Italia ha leggermente aumentato, altri paesi hanno aumentato molto di più per effetto di politiche fiscali, quindi di spesa pubblica controciclica, diciamo, che ha appesantito. Hanno messo più soldi per, hanno messo Germania, Francia, inutile dirlo, ma hanno messo più soldi, abbiamo visto anche per l'annuncio di Sarkozy. Beh, potevano anche permetterselo in quanto partivano da livelli più bassi. Ricordiamo, ad esempio, la Spagna partiva da un rapporto di debito PIL del 30 e arriverà al 68% nella nostra stima per il 2012-2013. Certo. L'Italia partiva da un livello più alto. A 107, se non ricordo male, 108%. Comunque, gli altri soggetti che voi analizzate, e quindi soggetti quotati, banche, grandi imprese, medie imprese, come sarà il 2010? Allora, premetterei che, anche per gli ascoltatori, che il 2009 è stato l'anno sicuramente del ciclo più negativo del credito che abbiamo mai visto, quindi dobbiamo partire da uno scenario molto brutto che va leggermente migliorando, ma non cambia drasticamente, rimane uno scenario ancora negativo. Abbiamo avuto 284 insolvenze in Europa rispetto ai 258 del 2008, ci aspettiamo ancora un trend negativo, un tasso di insolvenza che andrà probabilmente assestandosi al 5% rispetto al quasi 13% di quest'anno, quindi in miglioramento ma ancora negativo. Dove? In particolare venendo all'Italia, beh, l'Italia ha sofferto meno in alcuni settori. Nel settore bancario abbiamo avuto parecchi declassamenti, ma meno di altri paesi, anche perché le banche hanno avuto meno effetti della crisi sui loro bilanci. Tuttavia vediamo perdite di crediti in salita all'1,2% dell'attivo, che non è un valore basso, e vediamo altre aree di vulnerabilità per l'Europa e per l'Italia. Ciclo economico chiaramente negativo influisce sulla redditività del settore bancario. Sappiamo che il credito è ancora molto limitato e molto selettivo, quindi non si cresce. Il rischio di credito in portafoglio rimane elevato, ci sono anche rischi un po' di regolamentazioni nuove che possono anche influire generalmente sulle performance. Però direi che in generale in Italia abbiamo parecchie prospettive negative nel settore bancario, potrebbe esserci qualche aggiustamento. Nel settore industriale dovremmo distinguere, anche questo è stato un settore che in tutta Europa ha avuto un andamento piuttosto negativo, è arrivato un po' dopo rispetto a quello bancario, perché il ciclo sulle aziende si sente dopo. L'Italia è stata tra i grandi emittenti quest'anno, ricordiamolo, perché abbiamo emesso molto debito, è stato molto ben sottoscritto, siamo circa 25% di tutto il debito europeo. Beh, questo non è, io non mi vanterei di questo, però insomma. Beh, ci sono stati dei rifinanziamenti di aziende con profilo investment grade e aziende anche non investment grade, che però diciamo che è stato un anno record per le emissioni per tutta l'Europa e l'Italia. Ecco, chiarisco chi ascolta, questo vuol dire che insomma le imprese bancarie, abbiamo visto molti aumenti di capitale, per esempio anche di grandi banche, ma non solo, hanno fatto ricorso in tutta Europa e a maggior ragione in Italia, visto che abbiamo il 25% delle emissioni effettuate, al mercato, quindi a debito o aumento di capitale oppure invece obbligazioni, che è il riferimento che faceva la dottoressa Pierdicchi, per sostenere, diciamo, l'andamento delle proprie attività. E da questo punto di vista, voi dice, insomma, potrebbero esserci altri tagli di rating, mi dica solo sì o no nel 2010. Ma guardi, un indicatore dell'andamento del futuro atteso sono le prospettive. Nel settore bancario abbiamo ancora molte prospettive negative, quindi potrebbero esserci, a seconda di come andranno questi fattori citati, il ciclo, le perdite su crediti, la concentrazione sui singoli nomi e la redditività. Fondamentalmente. Nel settore industriale l'Italia non ha molti rating, dobbiamo ricordarlo, abbiamo appena meno di 30 rating, diciamo che abbiamo settori relativamente protetti che hanno performato bene, non hanno avuto molti aggiustamenti, in particolare le utilities continuano, e anche se vogliamo a livello europeo il settore farmaceutico non ha risentito della crisi. Sono un po' più a rischio il settore dei beni di consumo e dei beni capitali, dove però abbiamo già visto degli aggiustamenti, abbiamo visto anche due insolvenze quest'anno, IT Holding e Safilo, quindi direi che il settore settore industriale ha già risentito abbastanza, abbiamo alcune prospettive negative, però direi che insomma speriamo che abbia già risentito abbastanza. Dottoressa Pierdicchi, vuole commentare invece cosa dicono i vostri concorrenti, che insomma Moody's è uscita con un'agenzia, dice sarà un 2010 turbolento, bisognerà allacciare le cinture di sicurezza per quello che riguarda il rischio dei paesi sovrani. Se mi dice sì o no, per me è uguale. Ma io non commento sui colleghi di altre agenzie, posso solo dire che sicuramente tutti gli operatori sovrani sono potentemente presenti sul mercato, hanno grossi importi da finanziare, nell'Eurozona comunque per ora questo sta avvenendo assolutamente ordinatamente, direi senz'altro il debito pubblico è una variabile di fragilità nel medio termine, però ad oggi mi sembra che comunque le condizioni siano anche molto ancora molto. Anche vedere diciamo agenzie di rating che ogni tanto hanno insomma, no, visioni un po' diverse. Voi rispetto a Moody's mi sembrate un po' più cauti prima di dire allacciare le cinture di sicurezza, turbolenza in arrivo. Stavo quasi per mettere il nostro gufo a Moody's oggi, ma Vorrei ricordare che comunque nel settore sovrano abbiamo avuto 6 downgrade quest'anno contro i 4 dell'anno scorso, e sta è un settore che si è abbastanza aggiustato, ovviamente tutto in senso negativo, pensiamo ai casi dell'Irlanda, della Spagna, che hanno questo rating importante, la Grecia per noi è in credit watch negativo, quindi potrebbe essere oggetto di downgrade nei prossimi giorni, fino ai prossimi 60 giorni, abbiamo visto l'Irlanda abbastanza in cambiamento, anche se delle politiche sono in atto, quindi sono tutta una serie di fattori che hanno influito su alcuni grandi nomi. La Spagna recentemente è stata addirittura anche cambiato la prospettiva negativa da noi, quindi è possibile che nei prossimi 15-18 mesi possa esserci un cambiamento. Direi che l'Italia invece da questo punto di vista è più stabile. E questo ci fa piacere. Io auguro a questo punto buon fine anno, buon Natale e buon inizio 2010 al ministro delegato di Standard & Poor's Italia Maria Pierdicchi. Grazie anche a voi, tanti auguri. Dicevo, è bello anche vedere che insomma, le agenzie di rating non hanno tutto un pensiero unico, perché Moody's è più negativa, dice appunto allacciare la cintura di sicurezza per il rifinanziamento dei vari debiti dei paesi sovrani. Ricordo che nel 2010, così concludiamo e poi lanciamo l'informazione per chi è in viaggio, l'Italia dovrà rifinanziare 250 miliardi di obbligazioni tra BOT, BTP e altra roba, la Germania 210, perché la Germania ha avuto le politiche di aiuto all'economia fortissime, e anche la Francia non scherza, 175 miliardi, la Spagna 80 miliardi, Olanda 57, Grecia 44 miliardi. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, parliamo adesso di borsa. Guido Maurino, Radio Corriere, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Dunque, quando non ci sono notizie, come già dicemmo a suo tempo con la collega Leonora Micheli, è inutile trovarle per forza. Meno 0,1% è poca roba, più 0,1% a Parigi, più 0,1% a Francoforte, Londra è un po' più significativa, mezzo punto percentuale di calo, l'America meno 0,2%. Io adesso vorrei da te il quadro complessivo, poi darò la lista dei titoli, ma non mi sembra una giornata di quelle indimenticabili, se posso permettermi. Comunque, Guido. No, diciamo che dopo il rialzo di ieri, oggi è stata una giornata di prudenza un po' per tutti i listini, chi ha chiuso leggermente sopra la parità, chi ha chiuso leggermente sotto. Diciamo che ci sono alcune nuove tensioni che si aggiungono a quelle della Grecia e del Dubai, che potrebbero arrivare dall'Austria, dopo che un quotidiano austriaco ha riferito che l'autorità finanziaria del paese avrebbero messo la principale banca popolare sotto osservazione. In realtà poi dall'Austria sono arrivate una serie di smentite, ma comunque oggi è stata una giornata un po' di tensione su tutto il settore, che si è sentita anche a Piazza Affari, dove proprio i titoli bancari e finanziari in genere sono stati fra i peggiori. Ecco, Mediolanum quindi viene vista come titolo a questo punto bancario più che... Sì. Allora do io i dati: meno 2,80 Popolare di Milano, meno 2,80 anche Mediolanum, meno 1,7 Mediobanca, meno 1,5 Banco Popolare, anche Unicredito perde l'1,3%, più contenuti gli altri cali. Tra chi ha perso anche Exor meno 1,4 e Prismian appunto meno 1,4, Parmalat meno 1,1, Pirelli ed Enel meno 1%. Visto che lo chiedete, Monte dei Paschi invece è invariata, Intesa è invariata, UbiBanca più 0,1, quindi non tutti i bancari hanno reagito nello stesso modo. Tra i migliori, Mondadori più 2,5%, A2A più 2,2%, lì Guido, in una battuta, c'è un'attesa per un dividendo migliore? Sì, c'è un'attesa di un dividendo migliore, visto che un consigliere comunale a Brescia ha dichiarato ieri che sostanzialmente A2A, i vertici si sono impegnati a distribuire almeno 60 milioni sia a Milano che a Brescia, con un dividendo quindi totale previsto di 218 milioni, sì. Una notizia che ovviamente ha fatto salire il titolo, che ho già guadagnato il 2,24%. Bene, Ansaldo più 2,2, Unipol più 1,3, Steamac Electronics più 1% come Mediaset, Luxottica più 0,70 come Eni, Atlantia più 0,6%. Segnalo Fiat, i dati sulle matricolazioni, la quota è aumentata a livello europeo dall'8,1 all'8,2, è piatta, meno 0,2%. Enel soffre un po' per un giudizio di Bank of America e Merrill Lynch, ma a noi i report non piacciono, meno 1%, migliori e peggiori, Philips più 8,3 e poco altro, Saipem risparmio più 6,6, peggiori Seat, pagina gialla sul risparmio, meno 9,9, scende a 1 euro. E poi Montefibre, Casa Damiani, meno 4,90. Insomma, piatta la giornata, esiste anche questo nella vita. Grazie a Guido Maurino, e noi passiamo ai temi annunciati assieme a quelli che abbiamo già trattato, cioè i vari settori industriali. Partiamo con l'alimentare, poi avremo settore assicurativo e immobilio arredo. Eh sì, perché abbiamo iniziato la puntata dicendo che in chiaro scuro i dati che arrivano, in chiaro quelli del settore alimentare quanto a export, del Made in Italy più classico, grazie a panettoni 10 milioni di pezzi esportati. E come già annunciato la settimana scorsa, le bolle italiane, non quelle finanziarie, quelle che si bevono, spumante, Franciacorta, Prosecco, Asti, è un vero e proprio record. Toccherà i 2 miliardi di euro l'export di prodotti alimentari italiani trasformati, raddoppiando il valore rispetto a 10 anni fa, più il 10% di tutto quello che si fattura in un anno. E l'export natalizio complessivo potrebbe toccare i 6 miliardi di euro se non esistesse la concorrenza della contraffazione illegale, già ne abbiamo parlato, che pesa per 4 miliardi, sono 50 miliardi il valore del falso Made in Italy in giro per il mondo. Comunque, il presidente di Federalimentare Auricchio. Purtroppo l'industria nel suo complesso perde in questi primi 8 mesi circa il 23,5%, l'industria alimentare perde poco più del 4% in valuta e il 3% in quantità, quindi sono dati molto significativi. E devo dire tra l'altro che è stato un anno difficile anche per l'industria alimentare, soprattutto in alcuni mercati. Una gran fetta dell'industria alimentare va negli Stati Uniti, in Canada, in Germania, in Gran Bretagna, che sono sicuramente alcuni dei mercati che sono stati più toccati dalla crisi finanziaria, però nonostante questo i consuntivi o i preconsuntivi si attestano intorno a un 3-4%. La previsione è ancora migliore rispetto alla fine dell'anno, quindi noi pensiamo di chiudere il 2009 con dei dati ancora meno penalizzanti, intorno all'1,5-2%. Un fenomeno particolarmente significativo invece è l'export legato al Natale. Sono 20 miliardi di euro l'export che l'industria alimentare esporta nel 2009 fuori dai confini del nostro paese, più del 10%, quindi vuol dire più di 2 miliardi di euro vengono esportati in occasione del Natale. L'export natalizio è cresciuto negli ultimi 10 anni di oltre il 100%, a fronte di un 71,4% dell'incremento dell'export alimentare e di un 21-22% dell'industria. Aggiungo che questi 2 miliardi di euro potrebbero essere significativamente di più, tra i 5 o 6 miliardi di euro, se non ci fosse la contraffazione e il fenomeno legato all'Italian Sounding. E quindi, nonostante le difficoltà, alcuni dicono: ma come, il settore alimentare sta soffrendo? Oh, l'avete appena sentito dal presidente di Federalimentare Gian Domenico Auricchio, intervistato dal nostro Savino Gallo. Insomma, l'industria ha perso il 23% nei primi 8 mesi, ma le notizie buone arrivano dalle esportazioni dell'industria alimentare italiana, che ha recuperato il passivo dei primi 5 mesi dell'anno e punta, come avete sentito, a un 2010 ancora migliore. Poi sul fronte interno dei consumi invece lì arriveremo a dati più chiari verso fine mese. Una cosa interessante invece è che il nuovo avanza anche nei menù di Natale e Capodanno, prevediamo servizi sui TG italiani, la lasagna sorpassa i tortellini nella cena della vigilia. E perde colpi anche il rigore di magro, con l'avanzare di salumi e salmone e frutta esotica. Ma guadagnano spazio tra le porte di Capodanno. Queste alcune indicazioni che emergono da un sondaggio. Focus Economia. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. E allora, per quello che riguarda i settori di questo paese, i settori economici di questo paese, sono iniziati i bilanci. Abbiamo appena sentito che, soprattutto in merito al cenoni, natalizi e giù di lì, dovrebbe andare bene per i made in Italy alimentare, in un anno comunque non facilissimo per il settore alimentare, ma molto bene l'export. E adesso affrontiamo il tema con due settori che hanno dati, ve lo anticipo, diametralmente opposti. Partiamo da chi invece tutto sommato non si può lamentare per il 2009 e anche per il 2010, ossia il mondo delle assicurazioni. 349-238-6666 per i vostri sms. Sì, insomma, dai dati che abbiamo sotto mano sembra proprio così. Tra l'altro oggi si è tenuta l'assemblea dell'ANIA, che è l'Associazione Nazionale per le Imprese Assicuratrici. Il 90% del mercato assicurativo in tema di premi era rappresentato dall'ANIA. Allora, siamo in collegamento con il presidente dell'ANIA, Fabio Cerchiai. Buonasera. Buonasera a lei. Innanzitutto complimenti, perché lei proprio oggi nel corso dell'assemblea è stato rieletto presidente dell'Associazione delle Assicurazioni, è il terzo mandato e quindi la vedrà in carica fino al 2011, complimenti. Grazie mille. I dati che oggi avete fornito sul settore assicurativo, se ho ben capito, pur con qualche calo nel ramo danni per esempio, ma vedono una raccolta record per il ramo vita, a quota 79 miliardi di euro, più 45%, il che ci fa dire che da un lato è un settore, quello assicurativo, che soffre molto molto meno di altri, dall'altro vorrei capire anche come voi vi siete spiegati questo record nella raccolta del ramo vita. La raccolta vita quest'anno è stimabile, possa registrare una crescita nell'ordine del 45-50%, una crescita che peraltro avviene tutta nei prodotti assicurativi tradizionali, quelli che danno garanzia di risultato. I risparmiatori, soprattutto dopo la recente grave crisi finanziaria, sono alla ricerca di investimenti sicuri, che diano stabilità di rendimento, rendimento adeguato, nel medio-lungo andare, senza rincorrere massimizzazioni di rendimento nel breve, che ovviamente rappresentano un indice anche di rischiosità elevato. C'è una forte avversione al rischio e quindi un desiderio di investire meno parte dei propri risparmi in prodotti considerati sicuri. Il calo del ramo danni, 2,5%, è attribuibile, se ho ben capito, soprattutto all'RC Auto? Il calo del ramo danni, per dire la verità, riguarda sia il ramo RC Auto che gli altri rami. Abbiamo meno 3,5% stimato nell'RC Auto e un meno 1,7 nei rami non auto, quindi registriamo una diminuzione anche nei rami non auto, e questo dei rami non RC auto, il calo si spiega, ahimè, purtroppo, credo fondamentalmente con la crisi economica. È evidente che la spesa assicurativa, soprattutto delle aziende, ha degli obiettivi contenimenti in fase di recessione, si produce di meno, non si rinuncia a cambiare gli impianti, diminuiscono i valori assicuranti e diminuisce anche la spesa assicurativa. Per quanto riguarda il ramo RC Auto, in meno 3,5% corrisponde a una coda di diminuzione di spesa per gli assicurati italiani, per gli italiani, che consegue a una forte dinamica concorrenziale che ha contraddistinto gli ultimi anni. È onesto però aggiungere che siamo in presenza, annunciate da molte imprese di mercato, di aumenti dei listini prezzi, per cui c'è un po' di preoccupazione sul futuro andamento della spesa assicurativa degli italiani per la RC Auto. Quest'anno hanno speso ancora il 3,5% in meno, ma il rischio che ci sia un'inversione di tendenza e si torni a registrare una crescita nei prezzi è un rischio concreto. Questo consegue al fatto che si stanno adesso vivendo appieno gli effetti negativi dei provvedimenti legislativi assunti qualche anno fa dal precedente governo, un paio d'anni fa, con cui si è fortemente interferito nell'equilibrio tecnico delle compagnie di assicurazione nel ramo dei auto, bloccando la scala bonus-malus, che è tipica dell'assicurazione dei auto, cioè quella scala in virtù della quale chi fa sinistri paga ogni anno di più e chi invece chi non li fa paga ogni anno di meno. Mi scusi Presidente, ma ci sta dicendo che è probabile un aumento dei premi, dei costi della RC Auto? È possibile, perché i listini prezzi stanno aumentando, la dinamica concorrenziale è ancora vivace, però siccome si riferisce a listini di prezzi cresciuti non è da escludere che dal 2010 si registri una ripresa dei prezzi, che non è certamente auspicabile. Per noi soprattutto, diciamo. Cioè, ma anche per le imprese, perché le imprese non sono interessanti a prezzi alti, sono interessanti a margini economici sufficienti. Quindi il punto è come trovare margini economici sufficienti avendo prezzi più bassi possibile per gli assicuranti. Quindi credo che sia necessario rivedere quelle norme di cui le parlavo. Noi abbiamo già sottoposto al governo la necessità di intervenire per via legislativa, perché sono conseguenze di leggi dello Stato, tornando a modificare quanto previsto nella scala di bonus malus, quanto inopportunamente previsto nel cosiddetto bonus famiglie, perché mentre è comprensibile che possano esserci delle agevolazioni, è del tutto incomprensibile che un giovane di 18 anni paghi il premio assicurativo del nonno solo perché nello stato di famiglia risulta che il nonno è convivente. In bocca al lupo per i prossimi 3 anni, a questo punto 2 anni qualcosa, di mandato al presidente dell'ANIA Fabio Cerchiai. Grazie. E quindi buon 2009, buone prospettive sul 2010, possibile aumento del settore RC Auto, ma insomma è chiara l'analisi, l'avete appena sentita, i risparmi degli italiani, visto l'anno che si sta chiudendo, si sono concentrati ancora di più su strumenti molto garantiti come le polizze assicurative, qualche sofferenza in più invece sul ramo danni, vuoi perché ci sono, quando l'economia gira ci sono anche meno assicurazioni su questo fronte, però averne di settori così. È d'accordo Rosario Messina, presidente di Federlegno Arredo? Buonasera. Sì, buonasera a lei, ma me lo spiegherei poter fare lo stesso discorso delle assicurazioni, ecco, che del resto ho fatto in tutti i 50 anni di lavoro precedente. Purtroppo noi chiudiamo il 2009 con un dato per la prima volta nella storia, drammaticamente a 2 cifre in meno, purtroppo, perché abbiamo un bel 20% in meno, in quanto il settore del mobile è stato sempre in assoluto leader nell'esportazione. Allora, da un lato il crollo dell'esportazione con un meno 25%, per fortuna poi al mercato interno un meno 16% ha pareggiato un po' la situazione. Certo che sentirla dire che il meno 16 è un buon dato fa spavento. Comunque, posto che lei vorrebbe fare l'assicuratore e non il presidente di Federlegno Arredo, che lo ricordo vuol dire 400.000 addetti in Italia, tutto il settore del mobile italiano, made in Italy sui mobili, sull'arredamento, 400.000 addetti, 31 miliardi di fatturato. E beh, sono dolori dal preconsuntivo che oggi avete diffuso. Questo a dimostrare, senza nessuna polemica, che c'è un settore bancario, assicurativo, che ha già ripreso così a rimettersi in equilibrio, o nel caso dell'assicurazione non ha mai avuto problemi, e c'è un settore dell'economia reale, come la chiamiamo, soprattutto nel Made in Italy, nella forza del Made in Italy, che soffre ancora tantissimo. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per l'ultima parte di Focus Economia. Allora, si diceva, settori che vedono qualche luce come l'alimentare nell'export, settori che non hanno mai avuto problemi come l'assicurativo, e settori invece che hanno molto e molto sofferto nel 2009 come il mobilio arredo. Ripetiamo allora questi dati: fatturato di quello che è un settore chiave per il nostro Made in Italy, le 4 aree, dicevamo, individuate da Marco Fortis: arredamento, alimentare, automazione e abbigliamento. E allora, arredamento, sia Federlegno Arredo, meno 20% il fatturato, meno 23,5% le esportazioni, meno 22% anche le importazioni, i consumi meno 19%. un po' meglio, ma si fa per dire, l'andamento interno con un meno 16%. E Presidente Messina, l'unica notizia positiva che io riesco a trovare nei dati che avete oggi fornito riguarda comunque il fatto che la bilancia commerciale, cioè la differenza tra quanto esportiamo in questo settore e quanto importiamo, resta positiva. Sì, ancora in attivo fortunatamente, ma guardi, però per assicurare vorrei dare un dato importante, che è relativo al fatto che pur avendo un 20% in meno di chiusura vorrebbe dire che avremmo dovuto avere 80.000 persone espulse dal settore. Di questo onestamente la cassa integrazione, pochissimi licenziati, non arrivano neanche a 20.000, in quanto la fortuna del settore arredamento, poi queste aziende medio-piccole, ci siamo tenuti gli operai e non abbiamo creato né cassa integrazione né disoccupazione. Questo è stato, credo, un atto estremamente importante anche come risvolto sociale e dall'altro anche agli effetti di quelli che può essere i costi per il nostro paese. Quindi su 400.000 addetti 20.000 hanno perso il posto di lavoro, capito? No, bene? No, 20.000, no, hanno perso il posto di lavoro un migliaio. Ah, poi ecco, ci sono 20.000 sono quelli in cassa integrazione. Ah, perfetto, sì. Quindi non arriva al 5%, arriva al 5%. Diciamo. Esatto, mentre gli 80.000 poi ce li siamo tenuti, ecco, capisce? Non... Ma come avete fatto? Ah, semplicissimo, ci siamo mangiati gli utili come era normale prevedere. E anche qualcos'altro forse. Sì, sì, poi guardi, ho sentito le assicurazioni, mi fa piacere che le banche guadagnano, non è un mistero, io oggi l'ho detto per credo la 18ª volta in conferenza, una delle cose più drammatiche per il settore dell'arredamento, parliamo di questi soldi facili, però avere i soldi dalle banche è veramente difficile, per cui il 2010 si prospetta più scuro se le banche veramente coscientemente non prendono atto che fanno parte del sistema paese. Qui il problema non è salvare la singola impresa, ma essendo, come lei correttamente ha detto, uno dei settori tra i del Made in Italy, devo dire che dagli anni 50 Made in Italy voleva dire mobili, la moda successivamente è arrivata a fare manforte, per cui perdere la leadership nel mondo di questa grande positività sarebbe un grosso peccato, per cui noi non abbiamo chiesto al governo né detassazione per le imprese né fondi perduti, se non il rilancio dei consumi, come era del resto nel programma di governo e come stanno facendo altri paesi con i quali dobbiamo competere. Ecco, su questo fronte, fermo restando che le assicurazioni sono una cosa un po' diversa, presenti dalle banche, certo, nel senso che le assicurazioni non prestano soldi, ma la critica che le svolge al mondo bancario è a noi nota da parte di molti rappresentanti dei settori produttivi. Detto questo, andiamo sulle misure, perché voi non chiedete agevolazioni fiscali, però chiedete sostanzialmente che ripartano i consumi interni. Allora, nel settore auto, parliamoci molto chiaro, gli incentivi alla rottamazione hanno funzionato benissimo, non solo in Italia, in tutta Europa, il dato di oggi, no? Una botta incredibile, siamo contenti, 27%, adesso vado a ritrovarlo, 28%, nelle matricolazioni auto a livello europeo, certo. 27,7 per la precisione. Voi a che punto è quell'iniziativa che doveva permettere, non so, alle coppie di giovani sposi di detrarre gli acquisti di mobili? Il problema drammatico è che non la coppia di giovani sposi, il problema era che c'è un 2.000 euro appena su 10.000 d'acquisto tetto massimo, oltretutto recuperabile dal modello unico in 5 anni, sì, 400, ma il problema drammatico, io ho modo di dire, il ministro Tremonti ne ha piena conoscenza come ministro Scajola, spero che ora nel decreto di gennaio, è eliminare la condizione sine qua non, se uno non fa una pratica di ristrutturazione non ha questo tipo di beneficio limitato. Per cui, a parte che le pratiche di ristrutturazione dell'edilizia sono 10 anni, fortunatamente che vanno avanti, ma nessuno con l'aria che tira fa una pratica di ristrutturazione. E invece, svincolandolo da questo, è proprio per incentivare i consumi alla formazione di nuove coppie. Poi il 2.000 euro, devo dire che è anche un effetto psicologico, non è una grande utilità economica. Per cui è quella molla che fa scattare il consumatore che presta attenzione verso un settore. Non dimentichiamo che le famiglie italiane, fortunatamente, insieme al Giappone, siamo i primi risparmiatori del mondo. Ma insomma, Presidente Messina, cosa chiedete esattamente come sostegno per far ripartire la domanda interna, quindi i consumi interni? Eliminare il condizionamento per avere questo beneficio di 2.000 euro della ristrutturazione, e chiaramente se parliamo di arredamento poi vanno inseriti anche i mobili di ufficio, il bagno e l'illuminazione, eventualmente specialmente per l'ufficio, sono vincolati al problema degli investimenti per i macchinari nelle aziende. Devo dire che il ministro Tremonti, col quale condivido il fatto di essere il primo paese come debito europeo, oggi ha un dato veramente straordinario: stanno rientrando 110 miliardi, come ho detto stamattina, della sanatoria fiscale. Devo dire che questi, se si fa un non i bond europei, perché tanto Germania e Francia non li vogliono, perché che l'occhio si dice l'Italia è più brava, si riprende prima, ha creato anche delle gelosie. Sì, ma andiamo sul punto, Messina. Quello che lei dice, con i soldi dello scudo fiscale potrebbero uscire questi finanziamenti non vincolati al modello unico, così, ma insomma di vero incentivo al settore. Sì, ma per rilanciare non solo immobile, ma addirittura gli investimenti, 110 miliardi sono 110 miliardi. No, ma 110 miliardi, poi... no, mi scusi Messina, di questi 110 miliardi allo Stato entreranno, se va bene, 5,5, gli altri sì, saperlo dove vanno. Condivido con lei, solo che se gli danno il 2% di interesse, gli italiani sono subito disponibili a sottoscrivere dei bond a 10 a 20 anni, perché noi ci troviamo qui, l'errore è che per mesi, un anno e mezzo, 15 mesi, abbiamo usato la parola crisi. No, questa non è una crisi, per carità, no, se no non diamo il nome giusto alle cose. Questa è un'emergenza, come se fosse una terza guerra mondiale. Ecco. Qui si è distrutto il 50% della ricchezza del mondo, altro che crisi. Allora, un'ultima domanda che ho per lei, abbiamo due minuti scarsi. Posto che arrivino questi vantaggi, questi bonus, è sicuro che non vadano tutti all'IKEA? Perché molti ascoltatori chiedono, ma insomma all'IKEA c'è all'IKEA c'è la fila, perché il rapporto prezzo-qualità è vantaggioso. Cioè non è che si rischia un effetto quasi boomerang? Guardi, io ho la massima ammirazione per IKEA, perché è un'azienda straordinaria, ha un piccolo problema positivo, che ha delle dimensioni tali che gli permettono investimenti pubblicitari stravolgenti. L'ho dichiarato in occasione del Salone del Mobile. Ma lasciamo stare IKEA, voglio dire, non ci può essere un problema anche nel rapporto prezzo-qualità vostro, no? No, ma neanche lontanamente, perché i negozi di arredamento, possiamo fare un'indagine, hanno spesso dei prezzi competitivi tanto quanto l'IKEA. Guardi che l'IKEA molti prodotti li compra dall'Italia, non li compra dalla Cina o da altre parti, per cui anche gli italiani siamo bravi a fargli le antine per le cucine a dei prezzi estremamente competitivi. Il problema è che poi giustamente è come le macchine: chi compra una cilindrata 1000 vuole la 1000, ma chi compra la 5000 o 4000 o 3000 comprerà il mobile di design, che sì, comunque vuol dire sempre un problema di qualità. È come un pullover di cashmere con un pullover di lana, perché veramente questo grande entusiasmo nel dire IKEA, tanto di cappello. No, ma guardi, no, volevo solo capire se non ci fosse anche un problema di rapporto prezzo-qualità, e lei questo me l'ha negato. Io invece auguro in bocca al lupo a tutto il settore, che significa interi distretti industriali di questo paese, quindi lo rivolga e lo rigiri ai suoi associati. Grazie al presidente di Federlegno Arredo Rosario Messina. Siamo veramente in chiusura. E quindi da Sebastiano Barisoni, come sempre, l'augurio di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Visto che volete Wall Street, ve la do, ed è l'ultima cosa che vi do per oggi: meno 0,2% sul Dow Jones, meno invariato il Nasdaq, borse europee, tutte oggi invariate. Ci risentiamo domani.